Praise God, it's awesome to be here with you tonight. È così bello essere qui stasera con voi. Let's just pray. Preghiamo. Father, as we come round your word this evening, we thank you. Padre, ci approcciamo adesso alla tua parola e questa sera ti ringraziamo. For insight. Per le rivelazioni. For revelation. Per la nuova conoscenza che ci darai. Per la sapienza e per il modo che ci darei di applicare quello che ascolteremo. Che non possiamo essere solo degli ascoltatori della tua parola, ma che possiamo essere proprio dei facitori. Amen. Amen. You may be seated. Potete accomodarvi. The last time we were here, Barry just made it into the serial. L'ultima volta che siamo stati qui, il team del Bari, la squadra del Bari era appena entrata in Serie A. Because we were driving from Bari out to the church and we arrived late because all these cars were going around waving flags and doing. Eravamo in viaggio da Bari verso questa chiesa e c'era un sacco di traffico, macchine con bandiere, tutti che stavano celebrando questo evento. I'd heard about that, but it's the first time I'd ever seen it. Ho sentito che si faceva questo, ma quella era la prima volta che lo potevo vedere con i miei occhi. And I was here with my wife. Ed ero qui con mia moglie. We are co-senior pastors together. Noi siamo entrambi pastori della nostra chiesa. We've been married for 44 years. Siamo sposati da 44 anni. And we've been serving God all of that time. E durante tutto questo tempo abbiamo servito insieme Dio. We met at university. Abbiamo frequentato l'università. I was the president of the Christian group. Io ero il presidente di un gruppo cristiano. My wife was the secretary. La mia moglie era invece la segretaria. So I ran off at the secretary. E quindi mi sono innamorato della segretaria. Siamo stati fidanzati durante il nostro ultimo anno di università e l'anno dopo ci siamo sposati. We love the word of God. Amiamo la parola di Dio. E quindi vorrei condividere delle verità che prenderemo dalla parola riguardo la vita di Gesù. So hopefully you've got the notes. So the first one we're looking at is the leadership style of Jesus. Quindi ognuno di voi ha le dispense e quindi la prima cosa che vedremo è i modelli di leadership di Gesù. Okay, let's turn to Mark chapter 1. Quindi andiamo e leggiamo Marco capitolo 1. In the beginning of Mark chapter 1 we see how Jesus is baptized in water. Nel capitolo 1 di Marco vediamo come Gesù è battezzato in acqua. And prior to being baptized in water, e prima del suo battesimo in acqua, Jesus did no healing, Gesù non ha operato nessuna guarigione, no miracles, nessun miracolo, no teaching, nessun insegnamento, no deliverance, e nessuna liberazione. One of the problems when we read the Bible is we spiritualize things. Uno dei problemi che si presenta quando leggiamo la Bibbia è che la spiritualizziamo troppo. Because we know the outcome. Perché sappiamo come finisce. We know where it finishes. Sappiamo la fine della storia. But I want to put you in the place of where Jesus was beginning to teach his disciples, where Jesus was developing. Ma vorrei che ci mettessimo proprio nella situazione di quando Gesù ha incominciato ad insegnare, di quel periodo del suo ministero. And from this you get keys for leadership and keys for ministry. E da questo possiamo imparare delle chiavi per il ministero, delle chiavi per la leadership that we can apply to today. Che possiamo rendere pratiche oggi. Jesus was the oldest earthly son of Mary and Joseph. Gesù era il figlio più grande di Giuseppe e Maria. He would have been breastfed. È stato allattato. That's right. Like a normal human baby. Proprio così, come un bambino normale. There's only two scriptures that talk about his childhood. Ci sono solo due versetti che descrivono l'infanzia di Gesù. The first one said he grew up physically. Il primo dice che Gesù cresceva fisicamente, which a human being has to do, cosa che gli esseri umani di solito fanno, and he grew up spiritually. E cresceva spiritualmente. How did he do that? Come ha fatto? From age 2 to 12, every Jewish boy, dall'età di 2 anni a 12 anni ogni ragazzo giudeo imparava i primi libri del Vecchio Testamento, Levitico, Deuteronomio e Numeri, eccetera. Girls did it from 3 to 13, and I don't know why the difference. Mentre le ragazze incominciavano ad imparare tutto questo dall'età di 3 anni ai 13, non sappiamo perché ci fosse questa differenza. So when he grew up spiritually, he was learning the scriptures. Quindi il fatto che cresceva spiritualmente vuol dire che stava imparando le scritture. That's a challenge to parents tonight. E questa è una sfida per ogni genitore questa sera. Are your children learning scriptures? I tuoi figli stanno imparando la Bibbia? Or the latest cartoon or the latest pop song? O piuttosto imparano quello che riguarda l'ultimo cartone animato, l'ultima canzone pop? At age 12, what happened to Jesus? All'età di 12 anni, che cosa è successo a Gesù? He was taken to Jerusalem. Lui è stato portato a Gerusalemme. And the reason he was, e il motivo per il quale fu portato è che la sua conoscenza della scrittura fu esaminata in quell'occasione, like every Jewish boy. Come ogni ragazzo giudeo dell'epoca. Jewish girls, it was when they were 13. Sorry? Jewish girls was when they were 13. E per le ragazze questo avveniva quando avevano 13 anni. And so when Mary and Joseph left him behind, he was talking about the first 5 books of the Bible. E quindi quando Giuseppe e Maria lo lasciarono, Gesù stava parlando riguardo i 5 libri del Pentateuco. Okay, and so he was growing up spiritually, he was growing up physically. E quindi vediamo Gesù che cresceva fisicamente, cresceva spiritualmente. The Bible says he grew in favor with God. E la Bibbia dice che cresceva compiacendo Dio. And favor with the community round about, with people. Ed era in buone relazioni nella sua comunità. How did he do that? Come ha fatto? Well, as the oldest earthly son of Mary and Joseph. In quanto figlio più grande di Maria e Giuseppe. He would have been responsible for taking over his father's business. Lui era responsabile di continuare il lavoro di suo padre. What was his father? Che cosa faceva suo padre? Carpenter. Il falegname. Okay. And so we know that by the time Jesus comes to be baptized. E quindi sappiamo che fino al momento in cui Gesù arriva ad essere battezzato, Joseph has died. Giuseppe non era più in vita. And Jesus is in the business and he's providing for Mary and the other children. E Gesù era coinvolto negli affari di famiglia, provvedendo tutto quello che serviva per sua madre Maria e per il resto della famiglia. And so if you lived in Nazareth where Jesus lived. E quindi se noi avessimo vissuto a Nazareth dove Gesù viveva. You needed an extension on your house, you needed a table made, you needed a chair made, you would have gone to Jesus to have it done. E avremmo magari avuto bisogno di un tavolo, o di un mobile, o di un qualsiasi cosa per la casa, saremmo andati da Gesù. That's his first 30 years. Questo ha caratterizzato i primi 30 anni della vita di Gesù. In fact, the town so saw him as the carpenter's son that they rejected him later as Messiah. Infatti, tutti nella città vedevano Gesù come il figlio del falegname e a un certo punto del suo ministero l'hanno rigettato. So that's the summary of the first 30 years of his life. Quindi questo è un riassunto dei primi 30 anni della vita di Gesù. He was tempted but did not sin. Lui fu tentato ma non peccò. And at age 30 he comes to John. E all'età di 30 anni va da Giovanni. In verse 9 of Mark chapter 1, and he was baptized by John in the Jordan. E nel verso 9 del capitolo 1 del libro di Marco vediamo che si battezza, che fu battezzato. As he came up out of the waters, the Spirit of God came upon him. E quando è emerso dall'acqua vediamo una colomba posarsi su di lui. The people would have seen it as a dove. He heard a voice. e le persone la vedevano come una semplice colomba, ma lui udì una voce. This is my son in whom I'm well pleased. Questo è mio figlio nel quale io mi compiaccio. Now again we lose the significance of that statement. Ora di nuovo noi possiamo perdere di vista l'importanza di questa affermazione. As a 12-year-old when he went to the temple, quando Gesù aveva 12 anni e si recò al tempio, he changed from a nepios, which is the Greek word, to a weepios. Say those two. È cambiato da nepios, che è una parola in greco, a to a weepios. A weepios. A nepios was the name given to children had no status, no standing in the house. In fact, in the Roman days, they were equal to a slave. Un nepios era un figlio che non aveva alcun diritto, non aveva alcuno status nella famiglia. Infatti, nell'epoca dell'impero romano, equivaleva ad essere uno schiavo. And as a 12-year-old for a boy, 13-year-old for a girl. E per i ragazzi a 12 anni e per le ragazze a 13 anni, they came a weepios. Loro diventano a quest'età un weepios, which meant a son of the house, a daughter of the house. Che li rende un figlio della casa, della famiglia, una figlia della casa. In other words, they were then acknowledged as a son and daughter in that house with equal rights. In altre parole, in quel momento loro venivano riconosciuti come figlie e figli della casa con tutti i diritti che derivavano da questo. So from 12 to 30 Jesus was a son of the house of Mary and Joseph. Quindi dall'età di 12 anni all'età di 30 anni Gesù è stato un figlio della casa. Now you see the significance of what God is saying. E ora possiamo vedere l'importanza dell'affermazione di quello che Dio ha detto. You're no longer the son of the house. Ora non sei più il figlio della tua casa terrena. You are the son of God. Ma sei il figlio di Dio. You are my son. Tu sei mio figlio. What took him from that to that? Ora cosa l'ha portato da questo stato all'altro stato? What took him? Che cosa è stato? Cosa è cambiato? When he was filled with the Holy Spirit. Il riempimento dello Spirito Santo. And it was then he began to do miracles, teaching, healing. E solo allora Gesù ha incominciato a guarire, a fare miracoli e ad insegnare. He encountered the devil and overcomes him. Lui incontra il diavolo e lo vince. In verse 16 he begins to call his followers. Nel verso 16 lui incomincia a chiamare i suoi seguaci. Come follow me, verse 17, and I'll make you fishers of men. Venite, seguitemi e vi renderò pescatori di uomini nel verso 16. They left their nets and they followed him. E c'è scritto loro lasciarono le loro reti e lo seguirono. See, Jesus as a rabbi would have up to 120 followers at any one time. Vedete, Gesù come rabbi avrebbe potuto avere 120 seguaci. We only have a few named here. Ma qui ne vediamo solo alcuni nominati, citati. Nevertheless, when he calls them, he calls them to a vision. Ma quando lui chiama queste persone, le chiama con una visione. Come follow me and I'll make you fishers of men. Venite, seguitemi e vi renderò pescatori di uomini. Then he goes on the Sabbath day into the synagogue, as was his custom. E poi va avanti, nel settimo giorno si reca nella sinagoga, come era il costume dell'epoca. And so if you could read from verse 21 through to verse 39. Verse 39. Okay. Verse 21, mm-hmm. Verse 39. Quindi leggiamo dal verso 21 al verso 39 del capitolo 1 di Marco. Vennero a Capernaum e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. Essi si stupivano del suo insegnamento perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. In quel momento si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che c'è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Io so chi sei, il Santo di Dio!» Gesù lo sgridò dicendo: «Sta zitto ed esci da costui!» E lo spirito immondo, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti si stupirono e si domandavano tra di loro: che cos'è mai questo? È un nuovo insegnamento dato con autorità. Egli comanda perfino agli spiriti immondi ed essi li ubbidiscono. La sua fama si divulgò subito dappertutto nella circostante regione della Galilea. Appena usciti dalla sinagoga, andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Egli, avvicinatosi, la prese per mano e la fece alzare. La febbre la lasciò ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, li condussero tutti i malati e gli indemoniati. E gli indemoniati. Tutta la città era radunata alla porta. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie e scacciò molti demoni e non permetteva loro di parlare perché lo conoscevano. Poi, la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Simone e quelli che erano con lui si misero a cercarlo e, trovatolo, gli dissero: tutti ti cercano. Ed egli disse loro: andiamo altrove per i villaggi vicini affinché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Ed andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. So here we see Jesus preaching, teaching, healing, casting out demons. Quindi qui vediamo Gesù che predica, che insegna, che guarisce e che libera da demoni. Prior to this, he did nothing. Prima di questo, Gesù non ha fatto niente di tutto ciò. In terms of ministry and leadership. Non ha fatto niente in termini di ministerio e di leadership. So the first key tonight is by the infilling of the Holy Spirit. Quindi il primo punto chiave questa sera è che dal riempimento dello Spirito Santo, the same Holy Spirit that Jesus received, lo stesso Spirito Santo che Gesù ha ricevuto, we receive. È quello che noi riceviamo. We don't get anything less. Noi non abbiamo niente di meno. On the day of Pentecost, when the Spirit was poured out, il giorno della Pentecoste, quando lo Spirito discese, God didn't give us a diminished amount. Dio non ci ha dato lo Spirito in una quantità inferiore. He gave us the third person of the Godhead to dwell in us. Ma ci ha dato la terza persona di Dio che dimora in noi. The same Holy Spirit that was in Jesus. Lo stesso Spirito Santo che dimorava e che ha dimorato in Gesù. That took him from the carpenter's son. L'abbiamo preso dall'essere un figlio di un falegname, the carpenter of Nazareth, il falegname di Nazareth, to Jesus the teacher, a Gesù l'insegnante, Jesus the miracle worker, Gesù colui che opera miracoli, Jesus the healer, Gesù colui che guarisce, Jesus the deliverer, Gesù colui che libera da demoni, Jesus the coach, Gesù quello che insegna, Jesus the trainer, Gesù quello che forma, Jesus the discipler, Gesù quello che rende discepoli. All done through the Holy Spirit. Tutto questo è stato reso possibile dallo Spirito Santo. And we got the same resources that Jesus had. E noi abbiamo esattamente la stessa risorsa che Gesù ha avuto. The Word of God. La parola di Dio. And the Spirit of God. È lo Spirito di Dio. Jesus had the Word of God. Gesù aveva la parola di Dio. You read the Gospels. Noi leggiamo i Vangeli. And other than the Psalms, dopo i Salmi, which they used in worship in those days, che erano usati per adorare a quell'epoca, as songs, come canzoni, all the scriptures Jesus quote comes from the first five books. Tutti i versi che Gesù cita sono dei primi cinque libri della Bibbia, del Pentateuco. The scriptures he learned as a child. Che sono i versetti che lui ha imparato nella sua infanzia. E poi alla fine del suo ministero lui cita parole di due profeti. So he had the Word of God. Quindi lui aveva la parola di Dio. And he had the Spirit of God. E poi aveva lo Spirito di What Dio. Do we have? Che cosa abbiamo noi? The word of God, abbiamo la parola di Dio and the Spirit of God. E lo Spirito di Dio. That's our equipment. Questo è il nostro equipaggiamento. The same as Jesus. Lo stesso che aveva Gesù. To do what? Per fare che cosa? Ministry and leadership. Per essere impegnati nel ministero e per essere impegnati nella leadership. You see, when he delivered that man in the temple, vedete, quando Gesù ha liberato quell'uomo nel Tempio, when he read the scriptures out, quando lui ha letto quei versetti ad alta voce, people said, wow, what authority. Le persone attorno sono state stupite dalla sua autorità. He goes down to the house of Peter. E poi si reca a casa di Pietro. There's Peter's mother sick, e lì mother-in-law sick. Trova la suocera di Pietro che era malata. He heals her. E la guarisce. And then after the meal, what happens? E poi dopo il pasto che cosa succede? There was no cell phones. Non c'erano cellulari. No internet. Non c'era la connessione ad internet. But the whole village had gathered outside. Ma tutto il villaggio si ritrovò fuori la casa di Pietro. How? Com'è possibile? This. Questa. Word of mouth. La parola della bocca. How are people going to come into this church? Come le persone arriveranno in questa chiesa? How are people going to be saved? Come le persone troveranno salvezza? By us inviting them, by us speaking to them, by us declaring the things that God is doing. Attraverso di noi, attraverso la nostra parola, attraverso noi che dichiariamo e confessiamo le opere di Dio. God's chosen that we are saved through words that are spoken and the Holy Spirit moving on them. Dio ha scelto che noi siamo salvati attraverso le parole che confessiamo e l'opera dello Spirito Santo. And so he healed and he set free. E quindi vediamo che Gesù guarisce e libera. And so we can bring the definition up on the screen. Così che ministry. Possiamo proiettare la definizione di ministero e c'è anche sulle vostre dispense. Il ministero è qualsiasi attività con la quale si serve ai bisogni delle persone. Includes such things as preaching, teaching, counseling, praying, visiting, feeding, cleaning. E sono incluse nel ministero le prediche, gli insegnamenti, counseling, la preghiera, la vita personale, dare da mangiare, fare le pulizie. Now, what does ministry do? Ora, che cosa fa il ministero? Well, what happened next morning? Che cosa succede domani mattina? It says Jesus got up early, went off to a solitary place and began to pray. Nella storia, cosa è successo il giorno dopo? Gesù si è alzato molto presto la mattina ed è andato a pregare in un posto solitario. And his followers went looking for him. E i suoi discepoli lo andarono a cercare. Oh, we found you. That's good. Ah, ti abbiamo trovato. Che bello. What did they say? E che cosa hanno detto? You gotta come back to the town. Devi ritornare in città. Why? Why did he have to go back to the town? Perché? Perché Gesù doveva tornare in città? You read it. Lo leggiamo. Because there was a crowd there that wanted ministry. Perché lì si era formata una folla che voleva il ministero, voleva la conseguenza del ministero di Gesù. They'd heard about what had happened the night before. Perché loro avevano sentito quello che era successo la notte prima. Now they'd all come from the surrounding areas. E quindi da tutti i paesi circostanti sono lì. Bless me, pray for me, visit me, care for me. Benedicimi, prega per me, prenditi cura di me, guariscimi. What did Jesus do? E che cosa fa Gesù? Think about this. What did Jesus do? Pensiamoci. Insieme, che cosa fa Gesù? You read it. Lo leggiamo. He said, no, we're not going back. Lui dice, no, non andiamo indietro. Oh, come on, there's all this need. Ma Gesù, c'è tutto questo bisogno. He said, no, we are going to go to other towns. Ma Gesù dice, no, noi andremo in altre città. This is why I have come. Perché questa è la ragione per la quale io sono venuto. This is why I have come. Questo è il motivo per il quale io sono venuto. Leaders always ask the why question. I leader sempre si chiedono il perché delle cose che si trovano why a fare. Are we doing this? Perché stiamo facendo quello che facciamo? Now, I've often thought about this. What would you say if you were the one that had to go back to the town and tell them Jesus isn't coming? Ora, io ho pensato a lungo a questo e che cosa avremmo fatto noi se fossimo stati quell'uomo che sarebbe poi dovuto tornare in quella città per dire no, Gesù non ritorna, non viene di nuovo. Okay. Now, this is what you got to understand. Ora, questo è quello che dobbiamo comprendere. Jesus in his human body could only ever be in one place at one time. Gesù nel suo corpo umano poteva essere solo in un posto e in una volta, non era onnipresente. Same as you and me. Esattamente come me e te. Okay. Now he came to bring the love of God and to bring the word of God and to bring the power of God to everybody in this world. Ora lui è venuto per portare l'amore di Dio, la parola di Dio, la presenza di Dio a tutti quanti in questo mondo. How can he do that if he can only ever be in one place at one time? Ma come poteva farlo se effettivamente poteva stare in un solo posto allo stesso momento, allo stesso tempo? How could he do it if he stayed in one town and just ministered to one group of people? Come avrebbe potuto farlo se fosse rimasto in una sola città a ministrare ad un solo gruppo di persone? How did he solve the problem? Allora, come ha trovato soluzione a questo? By training others to do what he did. Formando altre persone affinché potessero fare quello che lui faceva. By teaching them to preach, teach, heal the sick, cast out demons. Insegnando loro ad insegnare, a predicare, a guarire, a operare liberazioni. So that when he went to heaven after the resurrection. Così che quando lui è tornato in cielo dopo la resurrezione, he could send the same Holy Spirit into their lives. Lui ha potuto mandare lo stesso Spirito Santo nelle loro vite. So wherever they are, wherever they find themselves. Così che nel posto dove loro si trovavano, they could do the works that Jesus did. Avrebbero potuto fare le stesse cose che Gesù ha fatto. And guess what? E indovinate cosa? That's why you're here tonight. È proprio per questo che siamo qui questa sera. Because you have contact with people pastor never does. Perché tu sei in contatto con delle persone con le quali il pastore non potrebbe mai essere. You are in places that he isn't. Tu sei in posti nei quali il pastore non potrà mai trovarsi. So he ain't gonna do it all. Quindi lui non farà tutto. We all are. Ma siamo una squadra, lo facciamo tutti quanti. We are being enabled by the Spirit of God in the same way as they were in the early church to do the works of Jesus. Noi siamo stati equipaggiati dallo Spirito Santo nella stessa maniera nella quale la prima chiesa primitiva è stata equipaggiata. We've been equipped to minister with the Word of God and the Spirit of God. Noi siamo stati equipaggiati per ministrare con la parola di Dio e con lo Spirito di Dio. But leadership. Ma d'altra parte la leadership is any activity that directs, influences or facilitates the ministry of others. È qualsiasi attività con la quale si indirizza, si influenza o si facilita il ministerio degli altri. It includes such things as planning, decision making, personnel selection, vision setting. E include cose come la programmazione, il prendere decisioni, il selezionare personale, la disposizione della Chiesa. When Jesus came out of the wilderness, he does personnel selection. Quando Gesù ritornò dal deserto, lui ha selezionato i suoi seguaci, il suo personale. Come follow me and I'll make you fishers of men. Vieni, seguimi e ti farò pescatore di uomini. He is vision setting. Lui ha dato una visione. And then he shows planning when he says we are going to go to other towns. That's decision making. E poi dimostra, no, il fare decisioni quando dice no, noi andremo in altre città. Because this is why I've come. Perché questa è la ragione per la quale sono venuto. So you need to write in your notes verses 12 to 34 is ministry. Quindi sulle vostre dispense, dove c'è lo spazio, dal verso 12 al 34, quello descrive il ministerio. Quindi scrivete ministerio. And verse 35 to 39 is leadership. E dal verso invece 35 al 39 si parla di leadership, descrive la leadership. Okay? Di Gesù. And so what I want you to do. Quindi quello che vorrei faceste. Leadership. Quindi fare una tabella, da una parte scrivere leadership e dall'altra ministerio. There's one question in leadership. Why? E c'è una domanda che caratterizza la leadership ed è perché? Outcome. Risultati. Vision. Visione. Reason. Motivazioni. Okay. Ministry. Mentre d'altra parte, sotto il ministerio, who? Abbiamo la domanda chi? What? Cosa? When? Quando? Where? Dove? And so in ministry we say who's going to do it? What are they going to do? When are they going to do it? E quindi, where are they going to do it? Nel ministerio ci chiediamo, ok, chi lo farà? Che cosa si farà? Quando lo faremo? Dove si farà? That's why a church has a calendar, has a program. Ed è proprio per questo che in chiesa, no? La chiesa segue un calendario, un programma. So ministry can happen. Così che il ministerio può essere facilitato. Jesus had a plan. Jesus had a program. Gesù aveva un piano, Gesù seguiva un programma. It was going from town to town, ed era il recarsi di città in città, teaching his followers, training his followers, insegnare ai suoi seguaci, formare i suoi seguaci, creating vision, e creare e comunicare una visione, given reason for why he was doing what he was doing, comunicare delle motivazioni sul perché stava facendo quello che faceva, constantly pointing to the outcome of the future, sottolineare il risultato di quello che si sarebbe presentato nel futuro. This is why I have come. E rispondere proprio alla domanda, questo è il perché sono venuto. And so leadership always asks the why question. E quindi vediamo come la leadership si domanda sempre il perché. Ministry, who, what, when, where. Mentre nel ministero abbiamo altri tipi di domande. Chi, cosa, dove. It's always to others. E il ministero si rivolge sempre verso gli altri. Ok? Ok? Now, I want to show you how Jesus now develops this. Ora, voglio mostrarvi come Gesù effettivamente sviluppa questo. On the second sheet that you got is a blank page on the back of it. Quindi, nella seconda pagina che avete, sul il retro, non c'è scritto niente sul retro. Ok? And I want you to draw a line. Turn the page side on and draw a line. Quindi vorrei che metteste il foglio orizzontalmente e che disegnasse una linea, come una linea del tempo. Okay. And here is when Jesus is filled with the Holy Spirit. That's the beginning of the line. Quindi, attenzione, alla prima estremità c'è l'evento del battesimo nello Spirito Santo che Gesù ha ricevuto. And here is the cross when he was crucified. All'altra estremità abbiamo la croce che chiaramente rappresenta la crocifissione di Gesù. Okay. This represents the 3.5 years of Jesus' life. E questo riassume i 3 anni di ministerio di Gesù. He starts by ministry. Lui incomincia vivendo e facilitando il ministerio. Okay. The Sermon on the Mount. Per esempio, se pensiamo al sermone sul monte, healing the lepers, quando ha guarito i lebbrosi, the sick who came to him, tutte le guarigioni che ha operato. This actually is the first 18 months of his ministry. E questo caratterizza i primi 18 mesi del suo ministero. What is he doing? Che cosa sta facendo? He is taking his followers. And he's making them disciples. Lui sta facendo sì che i suoi seguaci diventino i suoi discepoli. Li sta formando a diventare discepoli. So you've got two lines. This is Jesus's ministry. Quindi abbiamo due linee. La prima, quella di base, è quello che fa Gesù. And above it are the disciples, the followers. E mentre la linea superiore è quello che fanno i discepoli, i suoi seguaci. Okay. Think about the Sermon on the Mount for a moment. Okay. Pensiamo un attimo al Sermone sul Monte. The most common phrase in the Sermon on the Mount. La frase che più si ripete nel Sermone sul Monte is "You have heard it said, but I say unto you." È "Voi avete sentito dire, ma io adesso vi dico." You have heard it said, an eye for an eye, a tooth for tooth, but I say unto you, turn the other cheek. Avete sentito dire occhio per occhio, dente per dente, ma io adesso vi dico porgi l'altra guancia. He talks about lust and adultery. He talks about forgiveness. E lui parla di adulterio, di perdono. He talks about blessing those that curse you. Parla di benedire coloro che ti maledicono. What's he doing? Che cosa sta facendo? He is re-educating them. Lui sta rieducando i suoi seguaci. When people first come to Jesus, they have to be re-educated into the Bible way. Quando le persone andavano a Gesù, avevano bisogno di essere rieducate in base a quello che è il messaggio biblico. We all start off as followers. Tutti quanti noi incominciamo nelle vesti di seguaci. It takes time to become a disciple. E ci vuole tempo per diventare da seguace a discepolo. Okay. Now, they're participating with Jesus, they're seeing what Jesus does. Quindi a questo punto i seguaci stanno insieme a Gesù, vedono quello che Gesù sta facendo. And they're coming along with him. E passano del tempo con lui, stanno con lui. At this stage, no one's been singled out. Ma a questo punto nessuno è stato come posso dire? Individuato. Yeah, no, nobody's been say you're the one. Sì, nessuno è stato proprio nominato, no, come discepolo, tu sei colui che io scelgo. And then one night after praying, one day after praying all night. Ma poi ad un certo punto, un giorno, dopo aver pregato tutta la notte, Jesus had been going through towns and villages teaching. Gesù era andato in diverse città, in diversi villaggi ad insegnare, healing the sick and a guarire i malati. It said he was moved with compassion. E c'è scritto che lui era mosso da compassione. It's an interesting study. Non è interessante vedere questo? If you're a leader, if you're involved in ministry, study the word compassion. Se sei un leader, se sei coinvolto nel ministerio, studia, analizza la parola compassione. Because the scripture says every time Jesus was moved with compassion. Perché la Bibbia ci insegna che ogni volta che Gesù era mosso da compassione, he did his greatest miracles. Ha fatto i suoi più grandi miracoli. Feeding the 5,000. Ha dato da mangiare ai 5,000. Healing the lepers. Ha guarito i lebbrosi. Which was the impossible thing in those days. E questo corrispondeva all'impossibile a quell'epoca. But they have been going through, and he said he was moved with compassion because the people were like sheep without a shepherd. E quindi lui faceva queste cose. C'è scritto che era mosso da compassione perché le persone erano come pecore senza pastore. And then in Matthew 9 and verse 37. E poi in Matteo 9 al versetto 37. Jesus uses a word for the first time. Gesù usa una parola per la prima volta. What is it? Che parola è? Then he said to his disciples. Poi lui si rivolse ai suoi discepoli. This is 18 months in. E questo è dopo 18 mesi che Gesù ha incominciato a fare quello che faceva. They have been discipled in praying for the sick. They have been discipled in the word of God. They have been discipled in deliverance. Loro erano stati con Gesù, avevano imparato da quello che Gesù stava facendo, avevano ricevuto gli insegnamenti per diventare discepoli. And then he makes this statement. E poi Gesù fa questa affermazione. The harvest is plentiful, but the laborers are few. La messe è grande, ma gli operai sono pochi. Remember back here? Vi ricordate all'inizio? Come, the crowd wants you. Vieni, la folla ti cerca. No. We're gonna go to every other town because that's why I've come. Devo andare in altre città perché questo è il motivo per il quale sono venuto. Why did he come? Perché è venuto? To save us. Per salvarci. to empower us, per equipaggiarci, to train us, per formarci and release us. E per mandarci. And this is the first time he releases 12. E questa è la prima volta che lo vediamo mandare i dodici. He says, ask the Lord of the harvest to send out workers. E dice, prega al Dio della messe di mandare operai. And unfortunately, there's a chapter division in our Bibles. E sfortunatamente il capitolo si divide nelle nostre Bibbie. C'è una divisione tra chapter i due capitoli. Chapter divisions were never there in the original. E queste divisioni tra i vari capitoli non ci sono negli scritti originali. He didn't stop at the end of that statement. In altre parole, Gesù non si è fermato, non ha finito di parlare alla fine del capitolo. Understand this. Comprendiamo questo. He has compassion because he sees the crowd, he sees the need of the community. Lui ha compassione perché vede le folle, vede questi grandi gruppi di persone. The same needs that are in your city. Vede i bisogni che ci sono, gli stessi bisogni che ci sono nella nostra città. He said, there's a plentiful harvest out there, but the workers are few. E dice, la messa è grande, ma gli operai sono pochi. God, send out workers into the harvest field. Dio manda operai nella messe. And then Jesus calls his 12 to him, gave them authority and sent them out to heal. E poi Gesù chiamò i 12 a lui, diede loro l'autorità e li mandò a guarire. What's he doing? Che cosa sta facendo? What's he doing? Cosa sta facendo? He's expanding himself. Lui sta espandendo, allargando se stesso. Okay? And they are now going out with specific instruction. E poi li vediamo che sono mandati secondo una struttura precisa. Matthew 9 verse 37 through to chapter 10 verse 42. Matteo 9 al verso 37 e al 10:42. Dal 10 al 42. Okay. And what he gives them is a job description. E quello che fa Gesù qui è descrivere il lavoro che si aspetta da coloro che sta mandando. He says, go only to the lost sheep of Israel. E dice andate solo dalle pecore perdute di Israele. Why? Perché? Well, they were just starting out. Beh, loro stavano appena incominciando. Better to start in the environment you know than in the environment you don't know. È meglio incominciare in un contesto che è conosciuto piuttosto che completamente estraneo. He wasn't saying I'm just coming for the Jews. Non stava dicendo sono venuto solo per salvare i giudei. He was sending out the first of his trainees to do the work that he did. Ma stava mandando i primi che erano stati formati da lui in an environment they were most familiar with. In un contesto, nel contesto nel quale si era nel contesto più familiare a loro. First here. Prima qui. In this community. In questa comunità. Then in Bari. E poi in Bari. Then in Italy. E poi in Italia. And then in the rest of the world. E poi nel resto del mondo. But start here. Ma incominciamo qui. That's what Jesus is showing here. Questo è quello che Gesù sta mostrando qui. And so he uses the word for the first time, disciple. E quindi a questo punto Gesù usa la parola discepoli per la prima volta. And there's a job description, all 42 verses of it. E ci sono 42 versetti che descrivono il lavoro che Gesù si aspetta dai discepoli. If you lead a group and you're empowering people to do work, you must tell them what you expect. You must give them a job description. Quindi se sei alla guida di un team, di una squadra, è importante che tu descriva quello che ti aspetti dal tuo team, che faccia una descrizione del loro lavoro. Why? Perché? Because they came back and reported back to Jesus. Perché loro ritornarono da Gesù e gli comunicarono tutto quello che era successo. And what were they evaluated on? E su che cosa Gesù li ha valutati? See, management came Not in the 21st century, but with Jesus. Vedete, la gestione, la valutazione non è una cosa del 21esimo secolo, ma c'era già ai tempi di Gesù. He had a strategic plan. Lui aveva un piano, stava seguendo un piano. He had a vision, he had a mission, he had a purpose. Aveva una visione, aveva una missione, aveva un proposito. All the things that companies run around and say, we've got to have this if we're going to succeed. Che sono tutte quelle cose che le aziende, le grandi aziende descrivono e ricercano. Jesus was already doing it. Gesù stava già facendo tutto Now, questo. When they came back, ora, quando i discepoli tornarono, what was their biggest boast? Che cosa era il loro più grande orgoglio? We've got the power. Abbiamo potenza. You know, even demons were subjected to us. Wow, this is fantastic. Anche i demoni ci hanno obbedito, è stato meraviglioso. What does that show us? Che cosa ci dimostra questo? Ministry can be intoxicating. Che il ministero ci può intossicare. It's great to be used by God. È bellissimo essere usati da Dio. It's awesome to see God move through your life. È bellissimo vedere Dio che si muove attraverso le nostre vite. And touch other lives. E che tocca, che è d'impatto nelle altre vite. But how did Jesus respond? Ma quale fu la risposta di Gesù? Well, it's great, guys. Benissimo, avete fatto un ottimo lavoro. But remember this. Ma ricordatevi questo. Greater rejoicing in heaven over one soul that is saved. Che c'è più gioia nei cieli per un'anima che si ravvede. What's he doing? Che cosa sta facendo? He's taking them back to the vision. Li sta riportando alla visione. I will make you fishers of men. Io vi farò pescatori di uomini. And he's showing us that yes, it's wonderful to be used by God, but the reason we're here, the reason we're ministering, is to get people into the kingdom of God. E sta mostrando che sì, è meraviglioso essere usati da Dio, ma il proposito principale è che le persone possano entrare nel suo regno. This is why I came. Questo è il perché sono venuto. And then he adds another statement. E poi aggiunge un'altra affermazione. By the way, guys. E tra parentesi, e io ero in cielo quando il diavolo è stato buttato fuori dall'inizio. Why did he say that? Perché? Perché ha sottolineato questo? Because he wanted them to know there was still more to learn. Perché Gesù voleva che per i discepoli fosse chiaro il fatto che c'era tanto ancora da imparare. The key to leadership, the key to ministry is always remain a learner. Rimanere ammaestrabili, affamati di imparare è la chiave sia del ministero che della leadership. If ever we think I've got the power. Se ci ritroviamo a pensare sì, c'ho la potenza. Watch out. Allora, attenzione. God's going to put you in a situation. Perché Dio probabilmente ti metterà in una situazione where you realize you haven't. Che ti farà rendere conto che proprio non è così. Where you realize you cannot do anything without God going with you. Che ti fa rendere conto che non puoi fare nulla a meno che Dio non è con te. What's the very next event that happens? Ora, da questo punto, qual è il prossimo avvenimento che succede? The feeding of the 5,000. Che Gesù dà da mangiare a 5.000 persone. Happened the same day they reported back to Jesus. E in realtà questo è successo lo stesso giorno che i discepoli sono ritornati da Gesù per raccontargli ciò che era successo. The same day they said, we've got the power. Lo stesso giorno che i discepoli hanno detto, sì, abbiamo potere. And they go to this solitary place, but a whole crowd had already gathered there. E si recano in un posto solitario, ma la folla ormai si era già riunita. It comes to the end of the day, and it says, and Jesus had compassion on them. E arrivano alla fine del giorno, e c'è scritto che Gesù ebbe compassione per loro. What did the 12 who'd just been doing all this wonderful ministry say? Mentre che cosa stavano dicendo i 12 mentre stavano facendo tutto questo ministero, erano coinvolti nel ministero? Send them away. Mandali via. What did Jesus say? Che cosa invece Gesù ha detto? You feed them. Date voi loro da mangiare. What's he training them in now? Che cosa sta cercando di insegnare Gesù ai suoi discepoli? The power of God is not just for us. che la potenza di Dio non è solo per noi. It's not just to make us feel good. Non è affinché noi ci possiamo sentire bravi. But it's there to meet the needs of others. Ma l'abbiamo affinché possiamo essere una risposta per i bisogni altrui. It's there when we're moved with compassion to be able to do something about it. È lì quando siamo mossi da compassione vogliamo fare qualcosa a riguardo. And so one of the disciples said, "Oh, but it will take a whole year's salary to feed them." E quindi uno dei discepoli è lì che dice, sì, ma ci vuole il guadagno di un anno intero per dar da mangiare a tutte queste persone. Praise God for the accountants. E ringraziamo Gesù per i commercialisti ragionieri. But we also have to have faith. Ma dobbiamo anche avere fede. God has to have something to work with. Perché Dio deve avere qualcosa con la quale lavorare. So Andrew says, "Well, there's a little boy here with 5 loaves and 2 fishes, but I know that's not enough." Allora c'è Andrea che dice, "Ok, c'è un ragazzino che ha 2 pani e 3 pesci. Quanti erano? 5 pani e 2 pesci. Ma dice, no, questo non è sufficiente. You know, they've been a bit cautious now. They're not boasting anymore. Quindi sono diventati umili tutto ad un tratto. Non si inorgogliscono più. And then they feed them. E danno loro da mangiare. And God multiplies it. E Dio moltiplica quello che era nelle loro mani. What happens over the next 12 months? Quindi nel corso dei prossimi 12 mesi, che cosa succede? A number of things. Diverse cose. Miracles for the crowd. Miracoli per la folla. A Samaritan woman. L'incontro con la donna samaritana. At the well. Al pozzo. And a whole town is saved. E tutta la città trovò salvezza. And by the way, the Jews never spoke to Samaritans. E tra parentesi, i giudei non parlavano mai con i samaritani. That woman says, "You, a Jew, speaking to me?" Infatti vediamo la donna che dice, "Tu, un giudeo, che stai parlando con me?" And then the Syrophoenician woman. E poi the Syrophoenician woman who came on behalf of her son. E poi la donna che andò al posto della figlia. Okay. And she comes as a beggar to Jesus. E lei va chiedendo, supplicando Gesù. Son of David, have mercy upon me. Figlio di Davide, abbi pietà di me. What was the disciples' solution? Qual è stata in quell'occasione la soluzione dei discepoli? Send her away, send her away. Mandala via. And this is where Jesus makes a very significant statement. E questo è quando Gesù proprio fa un'affermazione molto importante. The Jews called the Syrophoenicians dogs. I giudei chiamavano questo tipo di persone cani. The only interpretation of this story is Jesus is instructing his disciples in how not to behave. E l'unica interpretazione che possiamo dare a questa storia è Gesù che insegna ai suoi discepoli su come non comportarsi, su quello che non si dovrebbe fare. Now he turns to them. Lui si rivolge a when lui. Saying, "Send her away," you know, she's this and she's that. Loro stanno dicendo mandala via. Lui si volge ai suoi discepoli. And what does he say? E che cosa dice? You see, in the job description back here, vedete nella descrizione del lavoro dei discepoli. He said, "Go to the lost sheep of Israel." Lui ha detto, disse, andate alle pecore perdute di Israele. And so, what does he say to the disciples and this woman? E quindi qui che cosa sta dicendo ai discepoli con questa donna? Now I want you to listen to how I say it, and if you're able to repeat it, that would be great. Mm-hmm. Quindi voglio che mi ascoltiate come io lo dico. Because there's two ways that Jesus could have said this. Perché ci sono due modi attraverso i quali Gesù avrebbe potuto dire questo. I only come for the lost sheep of Israel. Io sono venuto solo per. Just say it straight. Io sono venuto solo per le pecore perdute in Israele. I only come for the lost sheep of Israel. Io vengo solo per le pecore perdute di Israele. Yeah, that's right. That's why you sent us out to them. Ah, ok, ecco perché ci hai mandato proprio da loro. That's why it's okay for us to have this stinking attitude. Ah, ok, allora va bene se ci comportiamo così, che vogliamo che vada via questa donna. But that isn't how he said it. Ma Questo non è il tono con il quale Gesù ha detto questo. Because look at the woman's response. Perché consideriamo la risposta della donna. She goes from a beggar. Lei va come qualcuno in supplica. Son of David, have mercy upon me. Figlio di Davide, abbi pietà di me. To one who stands and looks at Jesus face to face. Alla quale che come una donna che guarda Gesù faccia a faccia. And says even the dogs will eat the crumbs from the table. E dice anche i cani mangerebbero le briciole da sotto il tavolo. So how did Jesus say it? Quindi qual era il tono di Gesù quando ha detto questo? I only came for the lost sheep of Israel. Io sono solo venuto per le pecore perdute di Israele. What's he doing? Che cosa sta facendo? He's educating them that he came for the Jews, the Samaritans, the Syrophoenicians as well. Lui sta dicendo che è venuto per i giudei, per i samaritani e per tutti gli altri popoli. He's expanding the ministry. Lui sta allargando il ministerio. He has a plan. He has a plan. Lui ha un piano. The lady picks up on it. E quindi la donna. And quotes an expression. Cita un'affermazione. So Jesus said, I only came to the lost sheep of Israel. Qui Gesù dice, sono venuto solo per le pecore di Israele. And he's wanting the disciples to say, oh, no, absolutely not. You came for everybody. E lui sta aspettando che i discepoli rispondano, no, tu sei venuto per tutti quanti. He's now overcoming prejudice. Lui sta superando i pregiudizi dell'epoca. He's crossing the gender barrier. Lui sta superando le barriere conseguenti alla differenza sessuale. Because in Bible days, men never spoke to women in public. Perché a quell'epoca un uomo non avrebbe mai rivolto la parola ad una donna. Let alone a Samaritan and a Syrophoenician. E qui abbiamo due eccezioni, con la samaritana e con questa donna. And her daughter is healed. E sua figlia. And Jesus makes this statement. Fu guarita e Gesù dà questa affermazione. I haven't seen such great faith in the whole of Israel. Io non ho mai visto una così grande fede in tutto Israele. Who else did he say that of? Che cos'altro? A Roman centurion. Che cos'altro ha fatto di simile con un centurione romano? They were even more hated than the Samaritans. E i centurioni romani erano ancora più odiati di queste tipologie di donne. See, he started off here by re-educating them. He's continuing to re-educate them, and he'll do the same for us. Quindi lui ha incominciato rieducando la mentalità, continua a rieducare e lo sta facendo tutt'oggi con noi. But there's one more he's got to re-educate them in. Ma c'è ancora uno che deve rieducare. Anybody know? Chi lo sa? Children. I bambini. Remember, children under 12 had no rights. Vi ricordate che i bambini al di sotto dei 12 anni non avevano alcun diritto? Children under 12 were the forgotten ones. I bambini al di sotto dei 12 anni erano coloro che erano dimenticati da tutti. And here, e qui some ladies are bringing their children to Jesus. Alcune donne stanno portando i loro bambini, i loro figli a Gesù. And the same disciples, e gli stessi discepoli, do what? Che cosa fanno? Send them away. Mandali via, mandali via. And Jesus says, ma Gesù dice, suffer little children to come unto me and forbid them not. Lasciate che i piccoli vengano da me. Now he sends the 70 out. A questo punto lui manda i 70. And the instructions to them, e le istruzioni per le indicazioni per loro, is given in Luke. Sono date in Luca. Okay, and now he tells them to go into every town and village that he would be going. E adesso dice loro di andare in tutte le città. It's Luke chapter 10. E si trova la storia in Luca al capitolo 10. Okay, and it goes through to the end of verse 17. E va fino al verso 17. And basically he's sending them to Samaritans, he's sending them to Jews, he's sending them to men, he's sending them to women, and he's sending them to children. E quindi qui sta mandando i 70 ai samaritani, ai giudei, agli uomini, ai bambini. Every town he was to go in. In tutte le città. They were sent out two by two. E loro furono mandati in coppia. And they come back in verse 17. E nel verso 17 loro ritornano. And they say, e loro dicono: we got the power. Abbiamo il potere. You see, ministry is very besotting. Ministry, it's a wonderful thing to be used by God. Vedete, il ministero è un qualcosa di meraviglioso per essere usati da Dio. But he never wanted them to stay there. Ma Gesù non ha mai voluto che i discepoli rimanessero lì. Okay, let's take a break. Okay, facciamo una pausa. With 5 minutes. 5 minuti. And then we come back. E poi ritorniamo qui. Praise God. Gloria a Dio. So the 70 come back. E quindi i 70 ritornarono. And in the last 6 months of ministry. E nel corso degli ultimi 6 mesi del ministero. There's a major change. Vediamo un cambiamento molto molto significativo. There's the 12, there's the 70. Vediamo che abbiamo i 12 e poi abbiamo i 70. They're doing the ministry. Loro sono coinvolti nel ministero. Jesus is the leader. E Gesù è il leader. Ministry, ministry. Quindi abbiamo il ministero all'inizio, il ministero nella parte centrale. And now leadership. E nella parte finale vediamo come subentra la leadership. What happens after the 70 come back? Quindi che cosa succede al ritorno dei 70? Two major things. Due cose principali. He chooses out Peter, Gesù, James, and John. Gesù sceglie Pietro, Giacomo e Giovanni. And you will see that Jesus now is training them to be the leaders of what he will establish after his resurrection. E vediamo come in questa fase Gesù si concentra nella formazione di Pietro, Giacomo e Giovanni, equipaggiandoli per quello che avrebbero fatto dopo. He's showing them vision. E gli mostra loro la visione. He's showing why he came. Mostra loro la ragione per la quale lui è venuto. He shows them the outcome. Gli mostra i risultati potenziali. Mount of Transfiguration. E poi la trasfigurazione. In the garden. Nel giardino. The 8 is left here. Gli 8 sono rimasti indietro. Judas has gone off to betray. Che Giuda ormai è fuori perché he takes Peter, ha scelto James di tradire. And John, prende Pietro, Giacomo e Giovanni. And he says, "Watch with me and pray." E dice: state con me e pregate con me. They see the whole impact of spiritual warfare. Loro vedono l'impatto della battaglia spirituale. But it's so powerful they fall asleep. Ma è così intenso che si addormentano. And here again we see the humanity of Christ. E di nuovo qui vediamo proprio l'umanità di Cristo. Can't you watch with me 1 hour? Non puoi vegliare con me per un'ora? The key aspect of leadership that Jesus shows. L'aspetto importante qui della leadership che Gesù mostra is they have to understand è che loro devono comprendere it's servant leadership. Che si tratta di una leadership che serve. Not status leadership. Non è una leadership di posizione. Status leadership. Well, status ministry was I've got the power. Il ministero di posizione era abbiamo il potere, abbiamo la potenza. How does Jesus deal with status? Ma come vediamo che Gesù tratta lo status, la posizione? Oh, I've got the title of a leader. Io ho il titolo di leader. Now I can tell people what to do. Ora ho l'autorità proprio di dire alle persone quello che devono fare. What was the major discussion amongst the disciples? Qual è stata la discussione, la conversazione principale tra i discepoli? Who's going to be the greatest? Chi è che sarà il più grande tra di noi? Who's going to sit at the right hand and the left hand of Jesus? Chi è che si siederà a destra e a sinistra di Gesù? And two of them even enlisted their mother to help. E due di loro chiedono anche aiuto alla madre per sapere la risposta a questo. James and John. Giacomo e Giovanni. These the two that are going to call down fire from heaven and consume a village. Questi erano i due che avrebbero chiamato il fuoco dal cielo per il ravvedimento di tutti. But when their mother asks Jesus whether one considered the left hand, one considered the right hand. E quando la loro madre domanda a Gesù chi di loro. It says the other disciples are upset. Why? Perché? They want the same place. Perché volevano lo stesso posto. And the last time it happens, what does Jesus do? He's had enough. E l'ultima volta che questo succede, che cosa disse Gesù? What does he do? Che cosa fa Gesù davanti a questo atteggiamento? Right here, just before. E siamo qui, prima della crocifissione. He finds they're having an argument over who's going to be the greatest. Quindi lui affronta questi discepoli che stavano avendo questa discussione. What does he do? E che cosa fa? He takes a nepios. Lui prende il nepios, a child that has no status, il figlio che non ha nessun diritto, nessuno status, no standing. Nessun diritto, e lo mette al centro tra i due. E che cosa dice? A meno che non diventiate come questo piccolo bambino. Vedete, Gesù rappresenta una leadership che serve, non una leadership di posizione. E quindi dopo la sua resurrezione lo Spirito Santo discende. Pietro incomincia il suo ministero, incomincia la Chiesa. E perché Gesù ha stabilito un piano sia nel ministero sia nella leadership. Come conseguenza di questo, noi siamo qui oggi. Noi siamo in grado di essere l'estensione delle sue mani, della sua opera oggi. Noi siamo la speranza di Dio per questa città, per questa nazione. And so we see here, if you turn your page over, e quindi vediamo qui, se girate la vostra pagina, to this drawing, you have a summary. Dove c'è questo schema. Ministry. E vedete, il ministerio starts with the external on the right hand side. Incomincia dall'estremità destra. Okay. Dal lato destro. You see questo. A need. Vediamo il bisogno. There were needs. C'era il bisogno. Jesus saw them as sheep without a shepherd. He saw them harassed. He saw them with needs. Gesù ha visto delle pecore perse senza pastore. Ha visto la condizione di queste pecore. Needs are external. Ha visto il bisogno che è esteriore. Needs. Il bisogno. Now il bisogno. Arrow. Poi seguendo la freccia. This creates feeling, this creates emotion. Il bisogno porta alle emozioni, ai sentimenti. This is internal. E questa è una condizione interiore. This is external. Mentre il bisogno è esterno, i sentimenti sono interni. And so needs with feeling gives action. E quindi partendo dal bisogno, passando per i sentimenti, arriviamo alle azioni. That's the summary of ministry. E questo riassume il ministerio. We're all called to be ministers. Noi siamo tutti quanti chiamati We're ad essere ministri. To serve. Siamo tutti quanti chiamati a servire. We're all called to be God's hand extended. Siamo chiamati ad essere l'estensione delle mani di Dio. When we're filled with the Holy Spirit. Quando siamo riempiti dello Spirito Santo. The resources of heaven stand with us. La risorsa celeste è in noi. We can lay hands on the sick and they recover. E possiamo imporre le nostre mani sui malati e loro possono guarire. That's not just for one or two super saints. Questo non riguarda solo due o tre super santi. That's for every single one of us. Ma questo caratterizza la vita di ognuno di noi. Because who dwells in you? Perché lui dimora in noi. Who dwells in you? Chi dimora in te? The God that created this universe. Dio che ha creato l'intero universo. The same spirit that Jesus had. Lo stesso spirito che era in Gesù. I have two granddaughters. Io ho due nipoti. 5 and 10. Una di 5 anni e l'altra di 10. The 10-year-old was filled with the Holy Spirit when she was 7. Quella di 10 è stata riempita dallo Spirito Santo all'età di 7 anni. She speaks in tongues. Lei parla in lingue. Which is the evidence of being filled with the Spirit. Che è l'evidenza di essere stati riempiti dallo Spirito Santo. 2 Sundays ago, I was in Romania. Due domeniche fa ero in Romania. She sends me a text on her mother's phone. E mia nipote mi ha mandato un messaggio dal telefono di sua madre. Granddad, I prayed for 3 sick children in Sunday school this morning. E ha detto no, ho pregato per 3 persone, 3 bambine. And when I prayed in tongues, e quando ho pregato in lingue, God healed them. Gesù li ha guarite. As a 10-year-old, she sees God healing her friends. Questa è una bambina di 10 anni con lo Spirito Santo che vede che Dio guarisce le sue amiche. Oh, but yeah, no, unless we become like little children. Vedete com'è? E a meno che non diventiamo come piccoli bambini. There's no yes but. Non esiste sì, però, forse. Jesus said, "The works I do, you shall do, and greater works." Gesù dice, le opere che io ho fatto, voi ne farete di più grandi. So either he lied or he told the truth. Quindi o ha detto una bugia o ha detto la verità. Most of us act as if he lied. E molti di noi si comportano come se Gesù avesse mentito. We go, oh, but. E diciamo sì, ma. What if nothing happens? Che cosa? E se niente succede? What if I get embarrassed? E se mi vergogno? What about? E se succede? E se? No. No. Obedience is better than sacrifice. L'ubbidienza è migliore del sacrificio. The only way that you're going to know whether God will heal somebody through you is you got to pray for somebody. L'unico modo che noi abbiamo per vedere se Gesù guarirà è effettivamente pregare. And by the way, when you pray in tongues, e tra parentesi, quando preghiamo in lingue, you're always praying in the will of God. Noi preghiamo sempre in accordo con la volontà di Dio. Because it's the Holy Spirit that's praying, the third person of the Godhead, the one who is one with God. Perché è lo Spirito Santo, è la terza persona della Trinità che prega, che ispira quelle parole. And that's why after this, after the Holy Spirit was poured out, it says many signs and wonders were done. E questo è perché questo è il motivo per il quale c'è scritto che dopo la discesa dello Spirito Santo tanti miracoli e opere potenti furono viste. It's not just for the people with the title. Non è solo per le persone con il titolo. It's for all of us. Ma è per tutti quanti noi. Your prayers are just as powerful as anybody else's prayer. Le tue preghiere hanno esattamente la stessa potenza delle preghiere di chiunque altro. I've seen incredible miracles through children praying. Io ho visto miracoli meravigliosi succedere grazie alle preghiere dei bambini. So why does it change when we become adults? Quindi perché? Che cosa cambia quando diventiamo adulti? Because we go yes but. Cambia perché incominciamo a dire sì ma. Children don't know excuses. Ci facciamo delle scuse, ma i bambini non conoscono right le scuse. Into it. Loro vanno, corrono il rischio. And so that's why that last thing was so important when he took a child and put it in the midst of them. Ed ecco perché l'ultimo evento di quando Gesù mette il bambino tra i due discepoli è così importante. You see needs. Quindi vediamo i bisogni. You're moved with compassion, with feeling. Siamo mossi da compassione e da sentimenti. The Holy Spirit empowers you to action. E lì lo Spirito Santo ci equipaggia all'azione. That's ministry. Questo è il ministerio. Leadership, on the other hand, d'altra parte, la leadership starts from this side. Incomincia dall'altro lato. conviction. Comincia con una convinzione. An understanding of the why. Con il comprendere il perché dietro il cosa. This is internal. E questo è interiore. And it requires a decision. È necessaria poi una decisione. Which leads to an action. Che ci porta all'azione. Notice the difference. Vedete la differenza? Outside need. Un bisogno esteriore. Inside feeling. Un sentimento interiore. Outside action. Ci porta a un'azione esteriore. That's ministry. E questo è il ministerio. Conviction. Mentre qui abbiamo una convinzione. Why? Il perché. Internal. Ed è interiore. Decision. Poi abbiamo la decisione. Internal. Che è lo stesso interiore. Action. E poi c'è l'azione. External. Che è il fattore esterno. And that's esteriore. What we see in the life of Jesus. That's what we see in the leadership style of Jesus. E questo è ciò che vediamo dal modello di leadership di Gesù. And so the drawing at the bottom starts at the bottom. E quindi lo schema nella parte inferiore della pagina incomincia da sotto. We start here. Incominciamo da qui. And so what does that say? E che cosa dice? Volontà, willingness. We volunteer, willingness. Quindi abbiamo una volontà. We make ourselves available. Ci rendiamo disponibili, siamo disposti. We turn up to be trained, we make ourselves available, we volunteer, we want to serve. Vogliamo formarci, vogliamo crescere e lavoriamo come volontari, ci siamo. And the next line is we do that because we have abilities. E facciamo questo perché abbiamo delle abilità sopra. And then as we use those abilities, what happens? E nell'usare queste abilità, che cosa succede? Che cosa succede? That's right. Esattamente, incominciamo ad avere fiducia. Which is? We have confidence. Quindi incominciamo ad avere fiducia. We feel good about doing it. Ci sentiamo bene nel fare quello che facciamo. We didn't have it down here, we had a bit of, oh, what if? All'inizio, quando c'era la volontà, eravamo un po', e come andrà? And this is where leadership comes in. They train us, so our ability makes us confident. Ma qui è dove entra in gioco la leadership, nella formazione, ed è questo che ci dà poi fiducia in noi stessi, che ci porta ad avere fiducia, sicurezza. Which makes us fruitful. Ed è questo che ci rende, che ci permette di portare frutto. There's results, there's action. C'è poi il risultato, c'è l'azione. This is the same for leadership and the same for ministry. E questo vale sia per la leadership che per il ministerio. So as we bring this to a close tonight, quindi per concludere stasera, come back to the first page. Andiamo alla prima pagina. We have seen these qualities as we've gone through this understanding. Abbiamo visto queste qualità elencate nell'analisi, no, della vita di Gesù. We've seen Jesus as a visionary. Abbiamo visto Gesù come visionario. This is the leadership style of Jesus that we are called to follow him. Questo è il modello di leadership di Gesù che ognuno di noi è chiamato a seguire. I will make you fishers of men. Io vi farò pescatori di uomini. Go into all the world, preach the gospel. Andate per tutti i popoli, predicate il Vangelo. All authority has been given unto me, therefore go and make disciples. It's all vision. Ogni autorità mi è stata data, quindi andate. And the second thing, he includes, is that what that word says? No, that says coach. Oh, it says coach, okay. Okay, so he coaches, that's right. Quindi, dopodiché, vediamo come Dio, come Gesù, allena, è un coach. Back here, he did everything. Prima era lui a fare tutto. Then he sends them out. Poi ad un certo punto manda loro i discepoli. They report back. Loro ritornano per descrivere quello che era successo. And in here he coaches them. E qui in questa fase lui incomincia ad allenarli, a formarli su come usare il potere. la potenza di Dio, how to be a follower of Jesus. Su come essere dei seguaci di Gesù. That this power is not just for you, it's for everybody. Che questa autorità, questa potenza non è solo per te, ma è per tutti. Okay, what's that one? He is also a teacher. Vediamo Gesù che è anche un insegnante. Okay. And he encourages them. E vediamo come lui incoraggia i discepoli. Okay. Now there's one I've obviously missed out. It's the word he includes. Okay, c'è una parola che manca ed è la parola che lui include. So you need to write that in your list there. Quindi magari la potete aggiungere nella vostra. He includes. Nelle vostre dispense. Lui include. Remember Jews. Vi ricordate i giudei, Samaritans, i samaritani, Gentiles, i gentili, children, e i bambini, every single one. Tutti quanti. And so when he comes here, e quindi quando arriva alla croce, after the cross, dopo la croce, you will receive power when the Spirit has come upon you, and you'll be my witnesses, Jerusalem, Judea, Samaria. The outermost parts of the earth. Ma voi riceverete potenza e sarete i miei testimoni in Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. And then here, e poi qui he delegates. Delegates. Lui delega. He says, go into all the world. Dice andate in tutti i popoli, nel mondo e fate discepoli. He teaches, he trains. Lui insegna, lui forma, he gave vision, lui dà visione, he encouraged, incoraggia, he coached, allena, he corrected, corregge, he included. E include. And this is the leadership and ministry development process. E questo è il processo di sviluppo della leadership. As you see here. Come proprio vedete sullo schermo. In the squares that you have in front of you, nei riquadri che avete sul vostro foglio, those that we lead, quelli che noi guidiamo, volunteer, make themselves available, sono volontari, cioè si rendono disponibili, non volenterosi, volontari. Ministry, they make themselves available. Nel ministerio sono volontari, sono disponibili. And there is a cost. E c'è un costo. Remember, they had to leave their nets, they had to leave their fishing, they had to follow Jesus. Vi ricordate, loro hanno dovuto lasciare le loro reti, la loro attività per seguire Gesù. We all live busy lives, we all have working lives, or we're at university, or we're studying, or we're doing it at school, and things like this. Tutti quanti viviamo delle vite piene di impegni, con l'università, con la scuola, con il lavoro. But we got to learn to make time available for God's kingdom. Ma dobbiamo imparare a rendere il nostro tempo disponibile per il regno di Dio. See, that little boy had to give his 5 loaves and 2 fishes. He had to give something to God to work with. Vedete, quel ragazzo ha dovuto dare i 5 pani e i 2 pesci. È stato disposto a dare. There would have been no miracle of feeding 5,000 without that. Non ci sarebbe stato nessun miracolo. E nessuno avrebbe mangiato dei 5,000 se non fosse stato per quel ragazzo. Noi dobbiamo fare la nostra parte. Lui ci incoraggia, ci dà forza, ci rinnova. Ed è per questo che abbiamo l'incontro di chiesa la domenica. E veniamo insieme, celebriamo insieme. Ma è quello che succede quando usciamo da quelle porte. There's areas of ministry, there's areas of leadership that takes the church forward. E quindi ci sono delle aree di ministero, delle aree di leadership che fanno crescere la chiesa. And so there has to be putting ourselves in a place to be used. E quindi ci deve essere la nostra parte nel metterci in un contesto dove noi possiamo essere usati. We have to be willing. Dobbiamo essere dobbiamo avere la volontà di farlo. Then we have capacity, abilities. E poi abbiamo delle abilità. And they can be trained and they can be resourced. E queste possono crescere, just possono like essere Jesus did. Perfezionate proprio come Gesù ha fatto. That's the role of a leader. Questo è il ruolo del leader. Training and equipping others. Formare ed equipaggiare gli altri. Not doing it all yourself. Non farlo tutto da solo. Releasing others to do it. Ma mandare e dar libertà agli altri di farlo. Just like Jesus did. Pro- proprio come Gesù ha fatto. And then you become confident through doing it. E nel fare acquisti sicurezza. And then there is fruitfulness. E porti frutto. Okay. Now there's one more box. Ora c'è un altro riquadro. Four squares. Ci sono altri quattro riquadri. You've got the answers up there already. So leave that up on the screen. Puoi lasciarli sullo schermo. La slide prima. Esattamente. M, come facciamo ora? I, come ci rapportiamo? P, D. When people come in, we motivate them. Quando le persone arrivano, noi diamo loro una motivazione. How do we motivate people? Come succede questo? Vision. Impartendo visione. Teaching. Insegnamenti. I will make you fishers of men. Io vi farò pescatori di uomini. Go into the world and I'm with you always. Andate in tutti i popoli e io sarò con voi per sempre. So if people are willing, quindi se le persone sono disposte, motivation is easy. Allora è facile motivarle. Because we want to do it. Perché lo vogliamo fare. You see this community, you see the vision you have as a church. Vedete questa comunità, conoscete la visione di questa chiesa? Let's do it. Ed è ok, ci sono. There's an expression that I hear a lot as a pastor. C'è un'espressione che sento molto in quanto pastore. When is the church going to do this? When is the church going to do this? When is the church going to do this? E quando si farà questo in chiesa? E quando la chiesa farà questo? E quando la chiesa farà quello? You know what my answer is? E sapete qual è la mia risposta? Yes, when are you? Sì, quando lo farei tu? Who's the church? Chi è la chiesa? Not just the pastor. Non è solo il pastore. It's all of us. È tutti noi. See, that's what Jesus was trying to show that very first day when he says, no, I'm not going back to the crowd. This is why I've come. I've got to go to the other villages. Questo è quello che Gesù sta cercando di dimostrare dal primo giorno, quando ha detto, no, non ritorno in quel paese, ma devo andare in altre città, perché questa è la ragione per la quale io sono venuto. The job can only be done if we all do it. Il lavoro può essere concluso solo se tutti quanti noi siamo coinvolti. E se siamo ammaestrabili, se siamo disponibili, se siamo disposti ad andare. And then the leaders participate with those that they are training. E poi il leader collabora con coloro che si stanno formando. We participate with them. Noi stiamo con loro, collaboriamo con loro. And that means we get confident, we love what we're doing because we're doing it together. E questo significa, questo comporta il fatto che siamo sicuri, acquistiamo sicurezza perché siamo insieme, lo facciamo insieme. And there comes a point when it's delegated. E quindi poi arriviamo al punto della delega. Go and do it. Ok, ora vai e fai. See, Jesus did it first. Vedete, Gesù ha operato per prima. The followers watched. E i seguaci hanno osservato. Jesus did it. Poi Gesù l'ha fatto. The followers did it. E i discepoli hanno anche loro operato, hanno anche loro fatto. Jesus watched. Gesù poi a un certo punto ha guardato. The followers did it. Ha osservato mentre i discepoli operavano. Jesus went to heaven. Gesù è andato in paradiso. Delegated it to us. E a quel punto ha delegato tutto a noi. So how do we connect with those that we're leading? Quindi come ci rapportiamo con coloro che stanno alla guida? Motivate. Motivando. Instruct. Istruendo. Is that what you have? Insegnando. There? Participate. Partecipando, stando con loro. Delegate. E infine delegando. This is the leadership style of Jesus. Questo è il modello di leadership di Gesù. This needs to be our leadership style. E questo deve essere il nostro modello di leadership. This is the ministry of Jesus. Questo è il ministero di Gesù. This is how we do ministry. E questo è come noi viviamo il ministerio. Because he is our example. Perché lui è il nostro esempio. And so my prayer is in the days that lie ahead. E quindi la mia preghiera per il tempo, i giorni che ci sono dinanzi, that you would read the gospel with different eyes. E che noi possiamo incominciare a leggere i Vangeli con un occhio diverso. That you will put yourself in as a disciple of Jesus. Che ci possiamo mettere nei panni dei discepoli di Gesù. And see how he took them step by step. E riconoscere come Gesù li ha accompagnati passo dopo passo. And then you will see why your church has leadership pathways, have ministry pathways. E così sarà sempre più chiaro il perché nella Chiesa abbiamo dei percorsi che seguiamo. Because there's a vision. Perché c'è una visione. And that vision can only be fulfilled. E quella visione può essere facilitata as we all do our part. Solo se ognuno di noi fa la propria parte. Ministry is that which meets the needs of people. Il ministerio è quella cosa che risponde ai bisogni delle persone. Leadership builds the church. Mentre la leadership edifica la chiesa. Ministry is not only in here but goes outside of these four walls. Il ministerio non è solo all'interno della chiesa, ma va oltre le quattro mura. Leadership determines the who, the where, the what, the when. La leadership determina il chi, il come, il cosa e il quando. Because there's a plan. Perché c'è un piano. Jesus had a plan. Proprio come Gesù aveva un piano. He knew he would not be here for the whole time. E lui sapeva che non sarebbe stato qua per tutto il tempo. Question. Domanda. Was Jesus's plan successful? E il piano di Gesù ha funzionato? Absolutely. Assolutamente sì. We wouldn't be sitting here tonight. Altrimenti non saremmo qui questa sera. If the 12 hadn't been sent out. Se i 12 non fossero stati mandati. If the 70 hadn't been sent out. Se i 70 non fossero stati mandati. And if the 120 hadn't been obedient and waited in the upper room. E se i 120 non avessero aspettato pazientemente il giorno della Pentecoste. To receive the same Holy Spirit that Jesus did. Per vedere e sperimentare lo stesso Spirito Santo che dimorava, dimorato in Gesù. We need to be willing. Noi dobbiamo essere disposti, able, capaci, to be trained, to be equipped, ammaestrabili, volenterosi di imparare, di crescere, the word of God, the spirit of God. La parola di Dio è lo Spirito di Dio. So that as we participate together, as we work together, così che lavorando insieme, collaborando, we gain confidence, acquistiamo sicurezza. And God can add to our church daily like he did to the early church. E Gesù può far crescere la chiesa come l'ha fatto sin dall'inizio. Let's stand. Perché non ci alziamo? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Grazie, Gesù. What I've shared with you tonight is a real passion that my wife and I have. Quello che ho condiviso con voi questa sera descrive la vera passione mia e di mia moglie. That every church is able to fulfill the reason for why God brought it into existence. Che tutte le chiese possano vivere appieno la volontà che Gesù ha per la chiesa. God's put you here to be salt and light. In this city. Gesù ci ha messo qui affinché noi potessimo essere luce e sale per questa città. In this nation. Per questa nazione. And yes, there is an enormous task. E sì, c'è un grande compito. But as we make ourselves available. Ma rendendoci disponibili. As we are willing. Essendo volenterosi. As we train and are trained. Formandoci e formando. As we grow in confidence, as we participate together. Acquisendo sempre più sicurezza in noi stessi, collaborando insieme. When responsibility is delegated to us. Quando una responsabilità ci è stata delegata. And we understand that it is servanthood. E capiamo che Gesù ci chiama a servire. Not status. e non ad avere una posizione. We understand that Jesus includes. Quando comprendiamo che Gesù include. Because of the vision. Per via della visione. Because of the need. Per via dei bisogni. He was moved with compassion. Lui era mosso da compassione. Actions happened. E per questo le azioni My poi prayer si sono viste. Is that the same would be true of this church. E la mia preghiera è che lo stesso possa succedere in questa chiesa. That the good work that has already been done, that has already been done. Che la buona opera che è stata già fatta would continued. Possa continuare. But would continue at an accelerated rate. Ma possa continuare in un modo accelerato. Because we understand our role in it. Perché noi comprendiamo la nostra parte in tutto questo. As ministry people. Come persone coinvolte nel ministero. As servants. Come servi. And leaders. E come leader. Both in the church. Sia nella chiesa. And into the community. Che nella nostra città. And when that continues to happen. E quando questo succede continuamente. God will add to his church daily. Dio farà crescere la sua chiesa. You will not have room to contain it. Noi arriveremo al punto di non avere spazio, tanto spazio da contenere quante persone verranno. I see multiple services in this church's future. Io vedo diversi incontri di domenica nel nostro futuro. I see people coming and going in mission. Vedo persone che vengono e vanno nella missione. I see people being trained and released. Vedo persone che si formano e che sono mandate. Why? Perché? Because obedience is better than sacrifice. Perché l'obbedienza è migliore del sacrificio. Lord, I thank you for each person here tonight. Signore, ti ringrazio per ogni persona qui questa sera. I pray the words that we shared would not only challenge us. Prego che le parole che abbiamo condiviso non solo ci possano sfidare, but also will encourage us. Ma anche ci possano incoraggiare. For the steps that have already been taken. Per i passi che sono stati già fatti. And the steps that will be taken in the future. E per i passi che saranno fatti nel futuro. That we as a church. Che noi come chiesa. Empowered by the Spirit of the Living God. Equipaggiata dallo Spirito del Dio vivente. The same Holy Spirit that took Jesus from a carpenter to the Messiah. Lo stesso Spirito Santo che ha lavorato in Gesù dall'essere un falegname al Messia. Will enable us to minister. Che lui possa equipaggiarci a ministrare. Will enable us to serve. Che possa renderci capaci di servire. Will enable us to lead. Che possa renderci capaci di guidare. To empower. Di equipaggiare. To coach, to train. Di istruire, di formare. To release. Di mandare. So that your kingdom would advance. Così che il tuo regno possa avanzare. In this city. In questa città. That when people pray for the sick, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Che nei giorni della settimana, quando le persone pregheranno per salvezza, per guarigione, healings will take place. Che possa succedere. Souls will be saved. Che anime possano essere salvate. Lives will be changed. Che vite possano cambiare. And that people will go from being followers of Jesus. E che le persone possano diventare seguaci di Gesù. To disciples. E poi diventare anche discepoli. To ministry. Ministri. To leadership. Leader. We ask these things in Jesus' name. Noi chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. God bless you tonight. Che Dio vi benedica.